Best portò in un certo senso nel calcio il vento del 68, e per questo è rimasto nella storia. Il vento del 68 non era un vento politico, evidentemente, nel calcio, era un vento nuovo, era un vento di rinnovamento, era un vento che, così come cambiò la musica con i Beatles, e tu ce l'hai ricordato prima, cambiò il modo di intendere il calcio da parte di George Best. Direi che Gigi non ci poteva essere un paragone più azzeccato. Non è un caso che proprio nel 68 George Best conquistò sia la Coppa dei Campioni che il Pallone d'Oro. Non è un caso che George Best avesse i capelli lunghi nel calcio, che invece allora presentava dei personaggi azzimati. Tanto per citare, in Inghilterra c'erano Stanley Matthews, c'era Bobby Charlton, cioè personaggi che erano in qualche modo all'opposto di quello che invece poi rappresentò George Best. Lui fu veramente un ciclone sul calcio britannico, ma in generale sul calcio mondiale, anche per il suo modo di giocare. Purtroppo ovviamente non abbiamo l'immagine delle partite di George Best in maniera completa, soprattutto qui in Italia. Per quanto possa aver capito io dagli spezzoni di filmati che si possono ricavare anche con le videocassette, era un giocatore che aveva una velocità straordinaria rispetto al calcio che si giocava all'epoca. Sì. Chiaramente il calcio in quegli anni cominciò a cambiare grazie a Best e successivamente poi grazie all'Olanda. Era un giocatore che aveva un grosso talento, unito, ripeto, a un'esecuzione in velocità che erano assolutamente strepitose. Per fare un paragone, direi che George Best poteva ricordare, ecco, Arjen Robben, tanto per citare un giocatore di oggi, probabilmente però, ripeto, con una differenza rispetto alla velocità con cui si giocava il calcio allora, superiore. Resta per tutti quel gol meraviglioso che lui segnò al Benfica di Eusebio nella finale di Coppa dei Campioni. Si era già ai supplementari, Best segnò il gol del 2-1, si era già giocato 90 minuti, ebbene Best in un'azione di 30 metri dietro, non meno di 7-8 metri di distacco al suo difensore, saltando poi il portiere e realizzando portavoce. Quel gol è un po' la fotografia di quello che era il gioco di Best.